specchio un'eco o di riflesso di un'assenza. Io sono un vecchio ed uno spreco, io con gli occhiali o senza. Io sono il giocatore che punta ancora un altro inganno sul panno usato del dolore per vincere il suo danno. Questo mare sale dentro me mentre io preparo il tè. Sono stato samaritano, piglia tutto in questo ballo mascherato dove il costume è tutto. Sono sopravvissuto tra storie, naufraghe, gingilli, un cuore muto di velluto per appuntare spilli. Questo mare sale dentro me mentre io preparo il tè. Questo tempo danza dentro me, dentro questa stanza che centro è del mio tempio a te. Questo mare sale dentro me mentre io preparo il tè. Questo tempo danza dentro me, dentro questa stanza che centro è del mio tempio a te. Così mi accorgo che il tempo è come l'aria, esiste proprio quando manca, come un artista d'arte varia che sul finale arranca. Era uno specchio, un eco o il balbettio di una coscienza. Noi siamo in due d'un muro cieco, io con gli occhiali o senza.